24 mattino di Alessandro Milan. Le 7.31 minuti, cari ascoltatori, eccoci, 24 mattino in diretta fino alle 9. Il sondaggio di oggi che ci ha, potete votare, state votando su radio24.it, nell'home page ci trovate bianco o nero. Torniamo a parlare di Afghanistan, della vicenda di Emergency. Curiamo anche i talebani e diciamo no alla guerra. Questa è la filosofia di Emergency di Gino Strada. Siete d'accordo con questa filosofia? Fanno bene secondo voi? Curiamo anche i talebani e non staremo zitti contro la guerra. Radio24.it, votate lì e noi andiamo a scoprire che cosa ci offrono i giornali. Beh, insomma, la politica sarà rottura tra Fini e Berlusconi? Questa è la domanda che si chiedono oggi tutti. In primo piano. Ebbene sì, dopo il faccia a faccia molto teso di ieri ci si chiede questo: che ne sarà del rapporto Fini-Berlusconi? Allora, il Sole 24 Ore lo mette in prima pagina anche se di spalla: ultimatum di Fini a Berlusconi, pronto al gruppo autonomo. Anche se l'apertura è sui consumi fermi, ripresa lenta. Dopodiché tutti gli altri giornali, ecco qui: Fini e Berlusconi alla rottura per il Corriere, La Repubblica, Berlusconi Fini e rottura. I giornali di centrodestra, interessante, il giornale Fini se ne va, meglio così. Libero, addio Fini. Sono interessanti anche giornali come Il Secolo d'Italia, cioè l'organo ex di AN, Lo strappo decisivo, col punto di domanda. C'è anche la direttrice Flavia Perina, che peraltro è anche una parlamentare, che peraltro è anche accreditata tra i finiani. Ora si gioca a carte scoperte, questo il titolo dell'editoriale. Ma insomma, Berlusconi Fini, alta tensione per il Messaggero, se finì. O se Fini, se la volete leggere all'italiana, l'unità, una foto, due foto, Berlusconi e Fini con lo strappo in mezzo. Il Riformista, Fini come Veronica, insomma, rischio di divorzio, esplode il PDL per il Fatto Quotidiano. Allora, questo è il tenore dei titoli. I commenti, perché ovviamente anche pieno di retroscena delle frasi che sarebbero volate tra Fini e Berlusconi ieri al pranzo. Stefano Folli sul Sole 24 Ore, in prima pagina: conseguenze di una scissione. Se Berlusconi e Fini accettassero un consiglio, occorrerebbe dir loro attenzione, siate prudenti, perché la situazione nel Popolo della Libertà sta per sfuggire di mano ai due fondatori ed è plausibile che alla fine del braccio di ferro essi saranno entrambi sconfitti. Un punto è certo: l'esasperazione del presidente della Camera aveva superato il limite, così come l'impossibilità per lui di influire sulla linea politica della maggioranza. Ma, scrive Folli, l'eventuale nascita di gruppi parlamentari autonomi promossi da Fini equivarrebbe a una scissione nel PDL, con tutte le conseguenze del caso. E scrive più avanti Folli: è chiaro che l'azzardo può costare caro a Fini, ma anche Berlusconi avrebbe poco da sorridere. I vari falchi del PDL, che 100 volte hanno invitato il premier a saldare i conti con l'indocile presidente del Montecitorio, dovranno spiegare dove porta la strategia del pugilato permanente all'interno del partito di maggioranza relativa. La risposta è palese: porta solo al collasso della legislatura, dal momento che le fatidiche riforme, già difficili in tempi normali, diventeranno impossibili dopo la scelta. Dunque, ammonisce Folli, attenzione, un'eventuale rottura porterebbe a danni anche per Berlusconi, non solo per Fini. Non sembra, ma dai retroscena, che sia questo l'atteggiamento di Berlusconi. Sul Corriere della Sera: lo sfogo del Cavaliere, se va via finisce l'incubo, lo seguono in 7 o 8. Così si mette automaticamente fuori dal partito. Mentre Francesco Verderami analizza invece qual è la posizione più di Fini, sempre alcuni virgolettati. La politica, in questi casi, i commentatori si affidano ai retroscena, gente che magari era lì, gente che per sentito dire cerca di riportare quello che sarebbe successo. Ecco alcune frasi. Durante il pranzo, scrive Verderami, pare che il premier non abbia capito, insomma, che Fini non ce la fa più. Io gli parlavo delle questioni e lui mi rispondeva con le frasi che aveva usato al comizio di Piazza San Giovanni. Questo sarebbe quello che ha detto Fini. Le questioni erano: Tu Silvio hai abdicato al tuo ruolo, io sono stato condannato alla marginalizzazione, la Lega ti ricatta, l'economia è in mano a Tremonti, il 30% che era la quota di AN nel PDL è composto da persone che hai comprato. E poi la bozza Calderoli, questo sarebbe stato il punto, Calderoli che è andato al Quirinale a portare una bozza a Napolitano. E Berlusconi che ha risposto, cosa vuoi che sia? Ma dove siamo? Come cosa vuoi che sia? Dove siamo? Insomma, queste, ripeto, sono alcune frasi che vengono riportate secondo Repubblica. Questo è il tenore. Fini che ora ha detto, già mi aspetto Feltri, che cosa scriverà? Per l'appunto, andiamo allora a vedere. Come detto, i giornali di centrodestra, Feltri e Belpietro, molto duri. Vittorio Feltri, Fini se ne va, meglio così, questo è il titolo di apertura del giornale. La rottura non è ufficiale, scrive Feltri, ma lo sarà tra qualche giorno, forse solo 48 ore. È normale che stia per accadere l'irreparabile, un sano divorzio. Sentite questa, e questo sarebbe un altro battibecco avvenuto tra Berlusconi e Fini. Berlusconi ha detto all'interlocutore che lamentava mancanza di dialogo. Per fare il matrimonio bisogna essere in due, e Fini... Sì, ma per divorziare basta uno. E Feltri sostanzialmente dice all'interno, bene così, insomma, davanti agli addii non esultiamo, ma non versiamo lacrime. Tutte le separazioni sono tristi, questa un po' meno. E così anche Belpietro, ormai sono costretti a divorziare. C'è un Fini raffigurato in un'immagine con un fagotto, che se ne va, addio Fini, tira già aria d'elezioni, anche se questo è stato smentito per esempio da un finiano come Italo Bocchino, però Libero invece scrive così, tira già aria di elezioni, tanto che Fausto Carioti dice Silvio vuole votare per garantirsi il colle, pensa già al futuro e la tentazione, scrive Libero a pagina 5, è subito alle urne. E comunque Belpietro dice Berlusconi e Fini sono obbligati a divorziare, o meglio è l'ex capo di AN a non potersi permettere di aspettare ancora. Aveva puntato insomma a entrare nel PDL per conquistare un ruolo nel centrodestra, non ce l'ha avuto, convinto di aver messo all'angolo Berlusconi, in realtà ci si ritrovò lui, a questo punto è il divorzio e inizia anche la conta. Troverete oggi ma domani sui giornali la cosiddetta conta, quanti dei parlamentari, perché la minaccia è questa, attenzione, facciamo gruppi autonomi in Parlamento, quanti parlamentari sono riconducibili a Fini? Gli scissionisti siamo almeno 65, lo leggo a pagina 20 del Sole 24 Ore, alla Camera arriviamo a 50. Pare che la voce che circoli di più tra i finiani sia questa in questi giorni, tu ci stai? Nel senso, se facciamo questa cosa, pare ci sia stata anche una cena l'altro ieri, scrive sempre il Sole, a L'Angoletto, ristorante a Roma, dove si sono riuniti. Pare che ieri Fini incontrasse, dopo aver visto Berlusconi, tutti i suoi fedeli a dire tu sei pronto? Come dire, se facciamo questa cosa. E poi c'è l'elenco dei fedelissimi, la Camera, Ronchi, Perina, Menia, Raisi, La Boccetta, Urso, Granata, Donato La Morte, insomma, e via così. Al Senato un po' di meno, pare che gli ex DN sono 47, la stima dei finiani 18. Tra questi non dovrebbe esserci Matteoli. Il ministro Matteoli fa un'intervista al Corriere della Sera, Monica Guerzoni, sono le 9 di sera, io non vado, non ho nessuna intenzione di aderire a una scissione. Poi sminuisce un po', auspico che non si giunga alla rottura, avete visto il comunicato di Fini che dice ma no, aspettiamo 48 ore, però la domanda finale, scusi ma se il presidente della Camera si mette in proprio deve lasciare la presidenza della Camera come avrebbe detto Berlusconi? Ma perché mi fa questa domanda? Beh, Berlusconi avrebbe detto così, ma Berlusconi ha smentito questa cosa. Beh, ma secondo lei dovrebbe lasciare la presidenza della Camera? Le auguro una buona serata. Così si conclude l'intervista di Matteoli. Certo, sta succedendo, come ha detto anche Stefano Folli in GR24 nel commento, sicuramente è il momento della più grave crisi all'interno del PDL dei due cofondatori. Il Foglio, infatti, in prima pagina, il Foglio, attenzione, e Giuliano Ferrara è stato accreditato di essersi avvicinato molto a Gianfranco Fini negli ultimi tempi. Pranzo indigesto tra Fini e il Cavaliere, è l'ora dei penultimatum di guerra. La scena che riassume la giornata è questa. Si legge in un fondo in prima pagina. In una Montecitorio deserta, Umberto Bossi, seduto su un divanetto del secondo piano, guarda l'ingresso serrato dello studio di Fini a pochi metri da lui e, riferendosi al proprio incontro con Berlusconi, osserva: il vertice c'è già stato ieri a Palazzo Chigi. Insomma, una frase come dire: il vero vertice è stato tra me e Berlusconi, non quello che sta avvenendo tra Fini e Berlusconi. E la mediazione finale, scrive il Foglio, spetta a Gianni Letta, il quale è stato dato l'incarico in queste 48 ore, che è il lasso di tempo che si sono dati i due per meditare, insomma, che fare, di mantenere aperti i contatti appunto con Fini. Questa è la politica, ne trovate moltissimi commenti ovunque se volete per cercare di orientarvi a quello che sta succedendo. Trovate molto anche di Afghanistan ancora, è il nostro sondaggio, ci torniamo, Emergency, che domani si riunisce a Roma per una manifestazione. Ci sono i tre arrestati in Afghanistan, sono a Kabul, e vi chiediamo, tra l'altro il nostro sondaggio Emergency dice: noi curiamo sì anche i talebani, curiamo tutti, quindi anche i talebani, non facciamo distinzioni e non staremo mai zitti contro l'orrore della guerra. Siete fanno bene, secondo voi questa è la filosofia giusta? Dovete votare su radio24.it. Devo dire che secondo Libero due dei tre fermati potrebbero essere già liberi tra poco. Si parlava già della possibile liberazione del logista Matteo Pagani, ora anche l'infermiere Matteo Dell'Aira, secondo indiscrezioni, sarebbe sul punto di essere liberato, mentre la situazione si complica, o meglio si complica, rimane difficile per Marco Garatti, il chirurgo, che è stato, secondo indiscrezioni, anche implicato, secondo gli afghani, nel rapimento di Daniele Mastrogiacomo, il giornalista di Repubblica, anche se Mastrogiacomo ha detto: io non l'ho mai conosciuto. Ieri l'associazione di Gino Strada ha detto: quando è stato rapito Mastrogiacomo in Afghanistan, il nostro Garatti stava in Sierra Leone. Quindi sono accuse assurde. Sta di fatto che questa è la situazione. Parla al giornale e sarà anche nostra ospite alle 8.30. La presidente di Emergency, vale a dire Cecilia Strada, il volto nuovo, giovane, la figlia di Gino Strada, sarà nostra ospite. Parla anche in un'intervista a Fausto Biloslavo sul giornale, dice sul tema che è poi il nostro tema: sui talebani voglio essere chiara, sono criminali e terroristi. La prima vittima dei talebani è la popolazione afghana, ma certo noi li curiamo, però non siamo amici di nessuno che faccia la guerra. E Biloslavo dice: ai nostri lettori, a molti dei nostri lettori non sembra così. Mi dispiace che ci sia questa impressione. Noi non siamo per nulla amici dei talebani. E soprattutto, però, sull'altro tema della guerra, o meglio dell'essere silenziosi, a noi non piace stare zitti perché la guerra ci fa orrore. Questo Cecilia Strada, che sarà appunto nostra ospite. Oh, c'è tutto il tema delle banche. Voglio aprire la questione finanziaria, economica, perché questa frase di Bossi: abbiamo vinto, le banche ci spettano, ci spetta un po' di banche, insomma, ha suscitato un dibattito molto interessante, oltre a scatenare un risico bancario e voci su quello che saranno le prossime mosse. C'è chi si è indignato: ma come, la politica che dice così in maniera aperta vogliamo le banche? Qualcuno scrive, ricorda anche la famosa frase: abbiamo una banca, no? Per la quale ci fu tutta la questione anche penale. In primo piano. È giusto che chi ha consenso politico pesi sulle decisioni. È un'intervista che Marco Alfieri, che già ieri aveva, vi ricordate, parlato del risico bancario dopo la frase di Bossi: dobbiamo contare di più nelle banche. Marco Alfieri intervista oggi Giancarlo Giorgetti, che è l'uomo forte delle finanze della Lega. Bossi rilancia sulle banche del nord, lo leggo sul Sole 24 Ore a pagina 24, c'è tutta la galassia del credito al nord. E Giorgetti, insomma, l'accusa è questa: ma allora state cercando poltrone, come nella vecchia maniera della, insomma, della conquista delle banche. Non è questo il punto, dice Giorgetti, ma se uno fa politica e ha consenso, è giusto che pesi sulle decisioni. Per esempio l'Expo, vi siete riempiti la bocca, i giornali, sostenendo che la Lega voleva occupare l'Expo. Invece abbiamo dato solo un contributo di indirizzo e controllo, prima con Fruscio e adesso con Carioni. Lo ripeto, non è nostro interesse andare a gestire direttamente il potere bancario, ma se un istituto lavora in una data realtà economica sarà il caso di sentirne gli umori. Anche i banchieri hanno le orecchie per ascoltare. Questo poi è una lunga intervista molto interessante, insomma, su questo tema. Allora, che vuol dire? Bossi vuole, diciamo, prendere possesso delle banche? Giuliano Amato, che è un po' il padre delle fondazioni, nonché ex presidente del Consiglio, fa un'intervista a Franco Locatelli, sempre sul Sole 24 Ore, a pagina 25, dice: la Lega ha delle richieste legittime. È del tutto legittimo che voglia essere pienamente partecipe del legame col territorio che si realizza nelle fondazioni bancarie. È legittimo che cerchi più spazio all'interno di queste realtà. Mi auguro però, dice l'ex presidente Amato, che comprenda l'importanza di non snaturare il ruolo delle fondazioni stesse, di investitori istituzionali. Dunque, sì, legittime richieste della Lega, ma non snaturare il ruolo delle fondazioni. C'è anche un commento a pagina 17 del Sole, La Lega e la finanza, di Franco De Benedetti, molto interessante. E il tema è quello: avremo una banca, no? Vedete che io ho detto, ricorda quella famosa frase, abbiamo una banca. Scrive De Benedetti: il guaio dell'intervento della politica in economia non è solo negli sbagli in cui incorre, ma nella povertà di idee che produce. Che idee porta Bossi per le banche? Lo sa che tutte le operazioni finanziarie di qualche rilievo sono fatte da 5-6 grandi banche mondiali? L'idea è solo di dire la sua su quale imprenditore dovrà essere aiutato e quale no? Se ciò che la Lega ha in mente è di riprodurre al nord il modello delle cooperative emiliane o del municipalismo senese, allora il suo "ci prendiamo le banche" fa venire in mente il già famoso "abbiamo una banca", con una differenza: che quella comunque una sua idea di banca ce l'aveva. Insomma, la Lega e la finanza è il tema che ci accompagnerà per i prossimi tempi. Tra l'altro, per quel che riguarda non banca affine, ma in realtà riguarda più l'evasione fiscale, La Stampa è andata a intervistare a Mentone, con Nicolò Zancan, Hervé Falciani, che è, l'ho già citato qualche giorno fa, è quell'ex dipendente della banca britannica di Ginevra, filiale di Ginevra, che se n'è andato via, anche se lui in questa intervista dice: sono un collaboratore di giustizia, non sono un ladro, non ho mai fatto un giorno di carcere, ma per una falla del sistema che io denunciai ai miei dirigenti mi sono trovato con un file con migliaia e migliaia di depositari di conti correnti in questa filiale ginevrina, anche politici importantissimi, gente con nome e cognome. Ora vive braccato, viene intercettato dopo una serie di telefonate anonime. C'è poi questa intervista: in quei file ho trovato nomi di politici importanti, parla l'uomo che ha violato i segreti della filiale HSBC. Così sfido il sistema. Lo trovate a pagina 25 della Stampa, un'interessante intervista che vi segnalo, anche perché insomma la Stampa lo ha appunto intervistato. Trovate anche molto per quel che riguarda la sempre l'economia. Ieri era il primo giorno degli incentivi, pare sia successo un inferno. Pagina 5 del Sole 24 Ore: esordio a ostacoli per i bonus, intasati call center per i rivenditori. Per Scaiola sono stati prenotati 21,5 milioni totale di incentivi. Voglio andare alle segnalazioni conclusive. Avete sentito adesso Via Libera che c'è casino incredibile per i voli aerei. Però il nostro collega di Via Libera è stato molto furbo. Non l'ha mica, avete sentito, un vulcano islandese. Sfido io a dire il nome di questo vulcano islandese. Io per voi ci provo. Prendo fiato. Eyjafjalla Jökull. Eccolo qua. Pensate che il Messaggero lo ha messo nel titolo, lo dico due volte. Eyjafjalla Jökull. Questo è il titolo del Messaggero, col punto esclamativo. E i cieli d'Europa divennero neri. Ora dico, già un vulcano che ha un nome così, che sembra fatto apposta per rompere le balle a quelli che fanno il lavoro come il mio per doverlo pronunciare, sta creando un danno incredibile. Praticamente oggi, per le sue ceneri, che rischiano di incenerire, di fondere i motori degli aerei, ha praticamente messo a terra metà degli aerei che oggi dovrebbero volare dall'Europa agli Stati Uniti. Un disastro, insomma. Ci si ride, ma è un disastro. Comunque trovate molto di cronaca anche di questo Echavchalla Jokull, che ha avuto il suo momento di gloria come vulcano e che ci sta facendo un po' imprecare per gli aerei che non partono. E allora, visto che siamo in conclusione, io ricordo, è legato all'ambiente ma non c'entra molto con il vulcano in questo caso, che oggi il Sole 24 Ore ha l'appuntamento con 24, cioè il nuovo numero è dedicato non ai vulcani, ma è dedicato, la parola chiave è sostenibilità, dunque l'ambiente. Tra l'altro un numero che coerentemente viene fatto a impatto zero, vale a dire compensando la CO2 prodotta con molti alberi che verranno ovviamente piantati. Sostenibilità, questa è la parola chiave del numero, del tema del mese di 24, con tanti articoli come coniugare appunto questo importante termine, sostenibilità ambientale, con lo sviluppo e l'impresa. In allegato ovviamente insieme al Sole 24 Ore. Ci fermiamo, votate sull'Afghanistan, curiamo i talebani e non staremo zitti contro la guerra. Emergency, secondo voi fa bene? Le 8 e 16 minuti, ben ritrovati, eccoci qua in diretta, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. E allora siamo ancora con Valentina Furlanetto, che conclude la nostra settimana. Buongiorno, buongiorno Alessandro e gli ascoltatori. Sì, oggi parliamo di telefonate indesiderate. Oh! Sì, ti è capitato di riceverne? E ieri dicevo in rassegna stampa, se mi chiama stasera l'immobiliare solita che vuol sapere se vendono un appartamento del mio condominio, li tratto male. Esatto, e quindi il pensiero è sempre quello, se potessi non riceverne, no? Certo. E di questo parliamo proprio oggi, perché il governo ha nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi l'istituzione del registro delle opposizioni, un registro pubblico dove i cittadini possono iscriversi se non vogliono più ricevere le telefonate che propongono abbonamenti, prodotti, dicevamo appunto offerte di pacchetti di prodotti, di internet, di pay tv, sondaggi, comunicati di campagna elettorale. Ciascuno di noi ha un lunghissimo elenco. Ovviamente è soltanto un progetto, per ora non è stato ancora portato in pratica, insomma, ma si tratta di una lista di cittadini che potranno sottoscriverlo per mettersi al riparo da queste telefonate indesiderate. Possiamo evitarle? È questa la domanda che vogliamo porre oggi al nostro ospite, ma anche come fanno queste persone a possedere i nostri dati. Lo facciamo con un ospite che è Luca Bolognini, presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, insomma, sì, ha capito bene di cosa parliamo. La legislazione attuale, innanzitutto, che cosa prevede? La legislazione attuale prevede una deroga, quindi adesso siamo in un limbo. Venivamo da un divieto assoluto di fare telefonate a casa ai cittadini, divieto assoluto che però non ha funzionato, e adesso ci troviamo in un momento di transitorio, di deroga, per cui telefonarci a casa è molto più semplice. Tutti noi stiamo ricevendo anche troppe telefonate, quello che viene definito da molte associazioni di consumatori telemarketing selvaggio. Ecco, e quello di cui parlavamo anche con Alessandro. Questo nuovo registro delle opposizioni come funziona e soprattutto funzionerà? Funzionerà? Beh, nessuno ha la sfera di cristallo. Certamente noi abbiamo dei dati che sono relativi ad altri paesi, Stati Uniti, Francia, in primis l'Inghilterra, quindi paesi importanti che hanno utilizzato questo sistema e che hanno dimostrato che questo sistema funziona. È un sistema semplice, si tratta di un registro pubblico, quindi un registro ottenuto con ogni probabilità dal Ministero dello Sviluppo Economico, che consentirà a ciascun cittadino, con una telefonata oppure via internet oppure via fax oppure via posta ordinaria, di iscriversi e di dire: io non voglio più ricevere telefonate su questo numero, su questo numero o su questi numeri che sono a me intestati. Sarà pubblica questa informazione, non nel senso che potranno leggerla tutti, ma nel senso che sarà ufficiale, e quindi se io riceverò telefonate da operatori che hanno tratto i miei dati, cioè il mio numero di telefono, dall'elenco telefonico e che li stanno utilizzando per scopi di marketing, io potrò prontamente denunciarli al garante e vi sarà certezza della violazione, perché appunto il mio numero è registrato in quella lista. Si tratta di un sistema nuovo che però da alcuni è criticato, perché ribalta il principio. Il vecchio principio era: nessuno mi può telefonare se io non ho prima dato con altri mezzi, in altri modi, in altre situazioni, un consenso. Adesso invece si ribalta. Sì, siamo noi che dobbiamo difenderci. Mi possono telefonare se sono sull'elenco, naturalmente solo se sono sull'elenco, fino a che io non mi iscrivo a questo registro. Per chi violerà, nel caso in cui venga ovviamente portato a termine, verrà messo in atto questo registro, per chi violerà questa norma cosa succederà? Ci saranno delle sanzioni? Dunque, ci saranno delle sanzioni pesanti, nel senso che andranno da 10.000 a 120.000 euro per ogni singola violazione. Lei si può immaginare quante violazioni può commettere un call center chiamando migliaia di cittadini. Questa norma, se venisse approvata, entrerebbe in vigore, intendiamoci, in realtà la norma primaria è già stata approvata, quindi c'è già una legge che dice che questo è il sistema. Questo di cui stiamo parlando oggi è il regolamento attuativo, il decreto di attuazione, che se venisse approvato oggi potrebbe diventare realtà, far diventare operativo questo meccanismo già tra 3 o 4 mesi. In questo decreto, io ho avuto la possibilità di leggere qualche bozza dei lavori preparatori, ci sono delle norme molto positive in realtà. Una delle norme estremamente positive è l'impegno del governo e degli operatori telefonici a fare una campagna di educazione e di informazione per i cittadini, per gli utenti, sui loro diritti di opposizione, sui loro diritti privacy nel senso più generale del termine, con riferimento al telemarketing. Però questa è una riforma che in realtà è frutto di un bilanciamento. Noi avevamo da un lato un settore in crisi, che era quello appunto del telemarketing, dei call center, avevamo dall'altro un settore, quello della telefonia, che aveva squilibri di mercato, quindi con l'operatore dominante che poteva telefonare ai propri clienti perché la legge sulla privacy lo consente, e gli altri che invece non potevano fare promozione su altri soggetti che non fossero già clienti, ed è evidente che se uno viene da una posizione di vantaggio e può telefonare ai propri clienti per proporre offerte è indubitabilmente più fortunato sul mercato. Dall'altro avevamo utenti, cioè tutti noi cittadini, bersagliati da telefonate moleste. Con questo sistema si dovrebbe riuscire a ribilanciare tutto il contesto del telemarketing, sia tutelando gli utenti sia tutelando il mercato, le libertà di mercato. Quindi almeno sulla carta e almeno guardando all'estero non è una soluzione cattiva. Vedremo che effetti avrà in Italia. Lei citava appunto l'esempio di altri paesi. In quali paesi questo tipo di registro è stato attuato? Ma guardi, io prima le citavo diversi paesi, il paese per eccellenza è la Gran Bretagna, non a caso questo registro negativo si chiama Robinson List, dal nome di Robinson Crusoe, proprio perché è una lista, il registro, per poter essere lasciati soli. La Robinson List è attiva in Gran Bretagna, ma anche negli Stati Uniti abbiamo la Do Not Call List e in tanti altri paesi abbiamo esattamente questo sistema funziona, che tutela. Quello che i cittadini spesso si chiedono è: non basta l'attuale legge sulla privacy a tutelarci da queste chiamate indesiderate? Mi pare di capire di no. Purtroppo no, nel senso che effettivamente avevamo una normativa stringente, una normativa severa che, come le dicevo prima, impediva le telefonate. La verità è che tutti noi, non serve fare una ricerca particolarmente complessa, continuiamo e continuavamo a ricevere telefonate moleste per scopi di marketing, e che questa norma in realtà non veniva rispettata, perché era difficilissimo per la vecchietta, ma anche per il sottoscritto, per chiunque, riuscire a dimostrare di aver ricevuto quella telefonata, rivolgersi all'autorità, riuscire ad ottenere giustizia, non essere più disturbati. I nostri dati erano presenti in una miriade di elenchi diversi, ed ecco che la norma era perfetta, come si suol dire, l'operazione riusciva perfettamente, ma il paziente moriva, di fatto il sistema non teneva. Senza contare le cose a cui accennavo prima, e cioè gli elementi di mercato. Era una norma estremamente stringente che però indirettamente, involontariamente, avvantaggiava operatori dominanti. Nell'attesa, Presidente, che venga approvato questo registro di Robinson, cosa bisogna fare quando si ricevono davvero troppe telefonate promozionali? Beh, innanzitutto, e finché non verrà istituito, bisogna opporsi al trattamento. Il cittadino ha sempre il diritto di dire al call center che lo sta chiamando: non mi chiami più. E comunque, visto che fino a che non sarà istituito questo registro vige l'opt-in, quindi vige la necessità del consenso preventivo, se si riceve una telefonata si deve subito chiedere qual è l'origine dei propri dati. Cioè bisogna chiedere al call center: lei perché mi sta chiamando? Dove ha trovato il mio numero? E per quale ragione lei crede che io sia disposto a ricevere telefonate? Può essere che un anno fa noi abbiamo dato il nostro consenso e non ce ne ricordiamo. Può essere invece che questo call center stia facendo il furbo, e allora in quel caso, se non otteniamo entro 15 giorni da quando lo abbiamo richiesto telefonicamente, proprio mentre ci stanno chiamando, una buona quantità e completa e chiara quantità di informazioni e di risposte alle domande che abbiamo fatto, possiamo rivolgerci al garante e chiedere al garante che indaghi e che punisca l'operatore eventualmente scorretto. Grazie, io la ringrazio, Presidente Luca Bolognini. Grazie, Presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy, grazie per essere stato con noi. Grazie. E allora, alle 12 ovviamente c'è l'appuntamento con Salva Danaio, e poi niente, no, lunedì ci rimandi dopo la Rosciani. Lunedì non ci sono più, ce sì, l'appuntamento faremo, è alle 12. Ce ne faremo una ragione. Certo, immagino, con Salva Danaio e con il Salone del Risparmio in particolare. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: alta tensione tra i cofondatori del PDL, Berlusconi e Fini. Il Presidente della Camera si è detto pronto a costituire suoi gruppi autonomi in Parlamento. Se lo farai, avrebbe replicato il Premier, devi lasciare la presidenza di Montecitorio. Una nuvola gigantesca di cenere, la Pilli, scaturita dal vulcano islandese Eyjafjallajökull, sta creando enormi disagi sui voli aerei di mezza Europa. Per oggi annullato il 50% dei voli tra Stati Uniti ed Europa, chiuso poco fa anche lo scalo di Francoforte. Verrà aperta oggi alle 11 nella sede Mediaset di Cologno Monzese la Camera Ardente di Raimondo Vianello, morto ieri a 87 anni. Rimarrà aperta fino alle 20 domani i funerali. E infine per il calcio, stasera l'anticipo della 34esima giornata di campionato. A San Siro alle 20:45 si sfidano Inter e Juventus. Allora, 8:34 minuti, torniamo a parlare di Afghanistan, della sorte dei tre operatori di emergency arrestati da qualche giorno nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Ieri, tra l'altro, in una lettera che è apparsa su Repubblica, il fondatore di Emergency Gino Strada, ed è questo che vi chiediamo, dice questo, tra le altre cose: noi curiamo tutti, è la nostra politica, è la nostra filosofia, perché tutti hanno diritto alle cure, tutti gli esseri umani. Certo, curiamo anche i talebani. Di fronte all'altra accusa di non stare zitti, certo, non staremo zitti, noi denunciamo l'orrore della guerra. È la filosofia, diciamo, che vi sta bene secondo voi? Devo dire che il 70% di chi sta votando su Radio24.it dice di sì. Anzi, il 71% aggiornando ora. Voglio salutare, ne parliamo con Cecilia Strada, buongiorno. Buongiorno a voi. Cecilia Strada è presidente di Emergency, è la figlia di Gino Strada e di Teresa Sarti, anzi dalla madre anche ereditato questo ruolo, presiedere la ONG Emergency. Saluto il politologo americano Edward Luttwak, buongiorno Luttwak. Buongiorno. Allora, Cecilia Strada, l'accusa che vi fanno è quella, essere simpatizzanti dei talebani. Lei oggi anche al giornale ha fatto un'intervista dicendo: a me i talebani non stanno per nulla simpatici, come tutti coloro che fanno la guerra. Ci chiarisca su questo punto, state con i talebani? Ma certo che no, non siamo con i talebani. Nel 2001 l'ospedale di Kabul fu invaso dai talebani, chiudemmo l'ospedale, presero a scudisciate due del nostro staff internazionale, tra l'altro uno è Matteo Dell'Aira, che in questo momento è trattenuto dall'NDS. Non possono starci simpatici i talebani, che sono dei guerriglieri terroristi, naturalmente. Il punto è che noi denunciamo gli orrori della guerra da entrambe le parti, quindi la guerra in questi giorni nel nostro ospedale ha la faccia di una bambina di 5 anni che ha perso un piede in un attentato talebano diretto alle forze della coalizione, ha la faccia di un bambino di 9 anni che è stato sparato in testa dalle forze della coalizione, e in questi giorni ha la faccia anche dei nostri colleghi che sono, lei ha detto, arrestati. Mi permetto di correggerla perché non c'è nessuno capo d'accusa ufficiale ancora. Per il momento sono fermati. Però lei dice, vede, è l'accusa che credo anche ieri Lutwak ha fatto, poi le replicherà, visto che ieri con suo padre, insomma, danno zero, si sono veramente sfidati. Mettere quasi sullo stesso piano le forze dell'ISAF e le forze, insomma, combattenti dell'Afghanistan che ci sono lì. Questo è un po', molti dicono, ma come? Noi siamo andati lì perché ci hanno buttato giù le torri gemelle, non facciamo la storia, ma insomma siamo andati lì per debellare il terrorismo. È chiaro che lo si deve fare, e lo si deve fare a volte anche con l'uso della forza militare. Sì, posso chiedere una cosa a Lutwak? Perché se visto che i talebani sono dei pericolosi terroristi, perché quando decapitavano la gente nello stadio di Kandahar, perché non siamo intervenuti nel 1996? Per portare la pace e la democrazia a un paese sconvolto. Dopodiché posso dire la mia opinione personale, io francamente mi aspetto di più da i soldati della NATO e di ISAF di quanto non mi aspetti da dei terroristi irregolari, e da questo punto di vista per me è più grave quando a morire sotto le bombe che spianano i villaggi sono dei bambini ad opera delle forze internazionali, proprio perché loro agiscono nel nome del diritto. I talebani non agiscono nel nome del diritto. Ma cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che la mafia in Sicilia rispetti i diritti quanto li rispetta lo Stato italiano che combatte contro la mafia? Non credo. Lutwak, allora, lei fa un'accusa precisa. Se si sta lì vuol dire stare dalla parte dei talebani. Perché è così tranchant nel suo giudizio? In passato la stessa organizzazione operava nella valle del Panjshir, nel tempo di Massoud, quello che è stato ucciso nel 2001. Massoud lottava contro i talebani. Molte persone lo chiamavano l'eroe del Panjshir, e gli afghani lo chiamavano il leone del Panjshir. Emergency aveva un ospedale lì. Quindi Emergency non era nel lato dei talebani, lì era nel lato di Massoud. Che vuol dire che uno dei combattenti di Massoud che si feriva andava all'ospedale, dove veniva curato, così ritornava a combattere. Cioè, se tu puoi avere le migliori intenzioni, operare in odore di santità e tutto così, il fatto è che se ti inserisci in una guerra, tu stai appoggiando la parte del territorio dove sei. Helmand Province, provincia di Helmand, è dominata dai talebani. Adesso ci sarà l'ingaggio delle forze armate, sicuramente saranno sconfitti, ma Emergency ha operato in territorio talebano. Che vuol dire? Che il suo ospedale, i suoi veicoli, i suoi depositi, le sue strutture, il suo andare e venire, obiettivamente favoriva i talebani. Ma cosa, come questo, una volta favoriva Massoud, cioè questa, qual è la soluzione? Allungare la guerra. Qual è la soluzione, Lutwak? Dovrebbero, la cioè non dovrebbero, è, non dovrebbero esserci perché si cureranno. La soluzione è di avere meno foto di bambini di fronte a te e di pensare un momento se stai prolungando o la guerra o la stai lottando contro la guerra, perché in Somalia le ONG, queste organizzazioni non controllate da nessun parlamento, da nessuna struttura democratica, che fanno quello che vogliono, fino a che vengono presi e poi strillano per essere aiutati, strillano e piangono. Fatto è che queste organizzazioni in Somalia fornivano i soldi per le milizie di compensarli le armi. Loro raccoglievano i fondi in Europa per nutrire i poveri somali, per operare in Somalia pagavano le milizie compravano armi e munizioni e prolungavano la guerra. Insomma, questo fino a Médecins Sans Frontières ha denunciato questo tipo di comportamento. In caso di Goma, Congo, guerra di Ruanda, la stessa roba. In Somalia e così via. Cioè operare, cioè, operare in un teatro di guerra vuol dire in qualche modo essere implicati nella stessa guerra. Vai nella Germania nazista e metti su un ospedale perché c'erano appunto i bombardamenti, i poveri bambini uccisi eccetera, metti su un ospedale, tu obiettivamente stai aiutando i nazisti. E il fatto di tentare di dire no, noi siamo indipendenti, noi siamo qui, noi siamo là, tanto è. Secondo lei non è possibile? No, ma questa è la cosa è precisa. Allora vorrei. Praticamente è possibile. Va bene, sentiamo Cecilia. Sentiamo Cecilia Strada su questo punto. Voi vi siete mai posti il problema a dire si può essere neutrali in una zona di guerra? Cioè arriva il combattente talebano, anche suo padre ieri ha detto noi lo curiamo perché il nostro spirito medico curiamo tutti. Quindi, torna a combattere. E lui torna a combattere. Ecco, Strada, questa è l'accusa di dire non si può non essere anche dalla parte dei talebani se si opera lì. Allora, fino a venerdì, anzi fino a sabato mattina, noi avevamo tre ospedali in Afghanistan, quello del Panjshir ce l'abbiamo ancora dal 99, il secondo Kabul e il terzo Lashkarga, vuol dire che siamo nelle zone controllate da l'una all'altra all'altra parte, quindi da questo punto di vista non è che sosteniamo una parte piuttosto che un'altra. In Panjshir abbiamo certo curato dei combattenti mujahideen di Massoud, alcuni magari avevano perso entrambe le gambe sopra il ginocchio, escludo che siano tornati a combattere. Dopodiché, anche se tornassero a combattere, a me questo è assolutamente irrilevante, nel senso che perché? La stragrande maggioranza dei nostri pazienti sono civili. Allora mi stai dicendo che per non prolungare la guerra io devo lasciare morire dei civili? Ma allora non è la fine di Emergency, è la fine della Croce Rossa Internazionale. Allora facciamo la Convenzione di Ginevra. Davvero, questo non è una qualcosa che riguarda Emergency, riguarda tutto il mondo umanitario, riguarda le Convenzioni di Ginevra, riguarda i trattati di diritto internazionale, la protezione dei civili nelle zone di guerra, la protezione di chiunque in zona di guerra abbia bisogno di essere curato. Dopodiché Lutwak parla di questo, anche ieri sera ha parlato di queste organizzazioni che in Somalia pagavano le milizie, al di là del fatto che Emergency non ha mai lavorato in Somalia, quindi so che non si sta riferendo a noi, ma perché non fa i nomi, così queste organizzazioni possono magari querelarlo e magari intitolare Edward Lutwak il loro prossimo progetto. Perché attenzione, sì. In Somalia ci sono state anche delle accuse molto precise e provate verso i caschi blu e verso i soldati anche del nostro Stato. Questo vuol dire che come diceva ieri sera le ONG sono una piaga. Da questo si può dedurre che i caschi blu, che l'ONU siano una piaga? Non credo proprio. Allora, Gino Strada ha anche detto, ma credo che sia anche la sua posizione, se fossero stati americani e non italiani, li avrebbero tirati già fuori, nel senso, come dire, la leggo così, l'Italia non conta molto. Visto che abbiamo Lutwak, lei che è americano, condivide almeno questa posizione, cioè l'Italia sconta il fatto di contare poco in Afghanistan ora? Quando il cittadino americano Lind è stato preso e riportato in patria per aver collaborato con i talebani, si è preso una condanna di 30 anni di prigione, di cui ne sarà 30. Il fatto è che vuol dire che devono andare in prigione questi di America? Il governo italiano, che la dinastia Strada attacca continuamente, si ha fatto di tutto e oltre quello che si può fare, intervenendo col governo afghano, perché formalmente, sulla carta, in teoria, il governo afghano ha legittimità di governo, come hanno 100 di questi paesi in giro per il mondo che vivono nella barbarie, ma teoricamente sono tutti governi legittimi. Quindi quando tu comunichi con loro, il governo italiano è andato al limite, proprio al limite di quello che si può comunicare fra due governi, che riconoscono la sovranità uno dell'altro, hanno insistito e premuto. Il fatto è che gli afghani, paradossalmente, hanno adottato il sistema di giustizia italiano, incluso dalla guerra al terrorismo, le vostre regole antimafia, ok? sono stati consiglieri italiani che hanno messo su lo sul sistema legale afghano. Cioè dice non è, quindi non è, non volete ridere di questo? No, è una cosa un po' ridicola. No, no, forse, ma così è. No, ma non è ancora adottato. Ma perché ridicola? Dice, insomma, siamo andati a dargli anche degli strumenti che potrebbero servire. Non lo so poi se li adotteranno. Sono appunto un paese sovrano. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora siamo con Cecilia Strada, presidente di Emergency, Edward Lutwak, politologo americano. Due ascoltatori prima di tornare dai nostri ospiti. Filippo, dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io intanto volevo dire che sono totalmente d'accordo, prima di tutto sul fatto che se arriva un paziente malato va curato a prescindere da che sia un militante o che sia. Però da un altro punto di vista io volevo contestare un po' la linea di Emergency, non la linea di curare i malati, di andare all'estero a curare i malati di guerra, che quella è una cosa lodevole, ma la linea di comunicazione e politica che indubbiamente ha anche Emergency, perché con le comunicazioni, con tutte le loro dichiarazioni extra, che fanno extra l'ambiente ospedaliero, si collocano chiaramente ad un livello che posso definire simile con le loro dichiarazioni molto violente anche nei confronti degli americani, nei confronti anche del governo italiano. Cioè, quasi dalla parte dei talebani, dalla parte di quelli che chiamano anche no global. Quindi è anche facile che poi vengano accostati a certi individui. Poi Cino Strada ha detto tante cose, ma non ha ancora detto cosa ci facevano le armi nel suo ospedale, primo. Vabbè, questo adesso Emergency va sempre in posti chissà perché dove la guerra la fanno gli americani e dove c'è da denunciare qualcosa con gli americani. Allora, ce l'hanno con gli americani. Grazie Filippo, adesso aspetti un attimo, adesso sennò un fiume in piena le risponderà Cecilia Strada tra un attimo. Voglio andare a Catanzaro da Pasquale, buongiorno. Buongiorno. Io intanto voglio ringraziare Cecilia Strada, Gino e tutti quelli di Emergency e dico che veramente la situazione è paradossale, vergognosa direi. Noi siamo di fronte a delle persone che rimettono in discussione la loro vita per salvare gli altri. Voi avete fatto una domanda come Radio 24 che, consentitemi, la reputo vergognosa. Vergognosa. Ci sono perché? I diritti, sì, le spiego subito, perché ci sono i diritti degli uomini, i diritti... Capito? Guardi, non ci sono domande vergognose. Gino Strada ha scritto questa lettera nella quale io spiego la domanda. Gino Strada ha scritto: noi curiamo tutti e non staremo in silenzio. E noi vi chiediamo: siete d'accordo? Che vergogna c'è in questo? Dica. Io lo spiego subito, perché non si può essere più o meno d'accordo sul curare tutti, perché se si aderisce ai diritti degli uomini si deve curare tutti, non è una... Ma questa è la sua opinabile. Posizione, vede che no, qui a dirlo, no, scusi, c'è Lutwak che ci sta dicendo persona, che non va bene, per esempio. Persona, se arriva una persona ferita, è un nostro dovere di persone civili curarla. Pasquale, non è una cosa questa è la questa. Se uno di fronte a una persona malata che è ferita, ok, che sta morendo, io gli tolgo il soccorso che posso dare perché nelle mie capacità farlo, io lì faccio un... Siamo diritto, d'accordo, signori. Detto questo, Pasquale, siccome siamo in una zona, non siamo a Catanzaro, ma siamo in una zona diversa, l'accusa per esempio di Edward Lutwak è che curiamo dei talebani che poi vanno al fronte e fanno la guerra contro di noi, tra virgolette noi, l'Occidente. Questo è il cuore, non c'è niente di vergognoso, siamo qui a discutere. Detto questo, Cecilia Strada, risponda ascoltatore che dice: andate sempre contro gli americani, dichiarazione contro gli americani, cioè il fatto di parlare troppo, non dell'opera che fate, ma del contorno delle dichiarazioni sempre molto forti. Ah, sì, noi parliamo di quello che facciamo semplicemente perché ci fa orrore la guerra e perché non ci piace alla fine di una giornata di lavoro, guardando le corsie piene, vedere quel che in televisione passano dei messaggi come la guerra che risolve i problemi. La guerra è sempre un problema, ma vorrei rispondere al fatto, e sono molto preciso il primo ascoltatore nel dire, sembra che noi andiamo solo dove ci sono gli americani per poterli attaccare. Guardi, noi lavoriamo in Cambogia dal 1998 a oggi, non ci sono gli americani, in Sierra Leone dal 2001 a oggi non ci sono gli americani, in Sudan dal 2004 a oggi non ci sono gli americani. In Iraq ci lavoriamo dal 1997, nel nord dell'Iraq, con zona controllata dai curdi, dove gli americani sono arrivati dopo quest'ultima guerra nel 2003, quindi onestamente non ce l'avete solo con gli americani. In Afghanistan, tra l'altro, siamo arrivati nel 1999, come sapete gli americani sono arrivati due anni dopo. Tra l'altro lei ha fatto un'accusa specifica, o meglio a dire, e su questo vorrei il parere di Lutwak. Lei ha detto che facciamo? Certo, curiamo anche dei combattenti, ma per questo dovremmo andare via lasciando i bambini, i civili, le donne che vengono ferite, allora la Croce Rossa Internazionale dovrebbe andare via, dovremmo stracciare la Convenzione di Ginevra. E Lutwak, lei dice sei lì e stai coi talebani, ma qual è la soluzione? Via tutti e si muore per un'infezione a una gamba? Perché non c'è l'ospedale? Torniamo da capo. Organizzazione non governativa vuol dire un'organizzazione che non è tutelata, controllata, vigilata da nessun Parlamento, nessuna espressione democratica. Fanno quello che vogliono. Fanno vedere le foto dei bambini amputati e così via, raccolgono soldi da persone ignoranti che non capiscono la logica della guerra e la logica della pace, e entrano questa piaga di ONG che entrano, si inseriscono nei conflitti e fanno sempre in odore di santità per l'umanità eccetera. Sono una delle ragioni che queste guerre sono prolungate addirittura, cioè le ONG, è stato dimostrato. E questo è il programma radio, se volete vedere Médecins Sans Frontières ha fatto l'analisi di questi interventi, ha fatto vedere come succede. Se volete curare gente, ci sono dei bambini nomadi qui a pochi chilometri da Roma che non hanno cure mediche. No, voi volete sempre andare, questi di Emergency e 100 altri ONG di questo tipo, andare dove ci sono le telecamere, dove c'è l'avvenimento, eccetera. E poi è un'accusa di esibizionismo. Questa dinastia strada vuole allo stesso tempo dimostrare contro, fare dimostrazioni polemiche contro il governo italiano, mentre allo stesso tempo esigono che il governo italiano faccia di tutto per salvare la loro insomma persone. L'accusa anche di esibizionismo, fare sì. Lo stesso giorno, lo stesso minuto, e questo vuol dire fare politica in vestiti umanitari, farsi sostenere, appoggiare, perché siamo tutti contro la guerra, siamo per i bambini, eccetera. Vabbè, insomma, lei insomma contesta che in realtà c'è una motivazione politica su questo. Il tempo è finito. Cecilia Strada, ci vuole ricordare, perché so che domani ci sarà una manifestazione a Roma per chi volesse aderire, dove esattamente? Quando? Sì, saremo dalle 2:30 in piazza San Giovanni. Mi spiace che Lutwak abbia offeso l'intelligenza di centinaia di migliaia o milioni di italiani non sostenitori di Emergency, sostenitori di tante realtà cui francamente non credo si possa dare gli stupidi di ignoranti. Comunque ci vediamo domani pomeriggio a Roma alle 2:30 in piazza San Giovanni. Va bene. E Lutwak è ovviamente invitato, come è invitato a venire a vedere i nostri ospedali. Va bene, io mi fermo, mi spiace anche a me la gente che mi scrive, ma lei è una vergogna eccetera. Io non lo dico mai, ma insomma adesso lo dico, io ho firmato l'appello di Emergency sul sito, io sto con Emergency, questo lo dico a tutti quelli che mi scrivono, si vergogni, lei è uno schifo, lei di qui, lei di là. Ma vergognatevi anche un po' voi, dai. Allora, grazie a Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, do la linea al nostro direttore Gianfranco Fabi, che oggi condurrà 9 in punto, e noi ci troviamo lunedì mattina.